e dicono: «Quando verrà questa vittoria, se siete veridici?» Di: «Nel giorno della vittoria sarà vano il credere dei miscredenti. Non avranno alcun rinvio. Allontanati dunque da loro e aspetta. Anche loro aspetteranno».